se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Rispetto alla possibile presenza di brogli, ormai è un evergreen, tutte le volte che si arriva in campagna elettorale qualcuno dice ci sono i brogli, ma perché dobbiamo sempre rovinare il gioco democratico con accuse peraltro mai provate? Quanto al presidente Enzo De Luca, presidente della regione Campania, lui ha detto una frase su Rosy Bindi assolutamente sbagliata, io sono stato il primo a dirlo, ma vogliamo fare il referendum sulle, che stiamo aspettando da 30 anni sulle frasi di Enzo De Luca, o vogliamo parlare nel merito? Questo referendum non è su di me, non è su De Luca, non è su Di Maio, non è sulle scrofe, non è sulle scrofe sane e non è sulle scrofe ferite. Oh mamma, mamma, mamma, il referendum, dai che finisce, dai che finisce. Ieri ero un pochino nervoso verso sera e... niente, accendi la TV e c'è il referendum. Io la TV la guardo pochissimo, peraltro. Accendi, c'è il referendum, giri su... ormai interrompono Peppa Pig per parlare un po' del referendum. Ho scritto così, ancora mezza parola sul referendum e in braccio un fucile. Che non ho peraltro, tranquilli, che non ho peraltro. Però se venite domenica al Teatro Manzoni di Milano con Leonardo Manera, con Oscar Giannino, con Mauro Meazza, suonano i Chapter 11, ci sono anch'io, eh? Al Teatro Manzoni di Milano domenica sera parliamo anche del referendum, eh? Come vota? Sì o no? Non si sa. Ecco, vota così. Grande Peter Bescapè, dai che è venerdì, forza, insieme a Lorenzo Nespoli in redazione. Si chiude la 186esima settimana per l'abolizione delle province con il presidente del CNEL. Signori, c'è un presidente del CNEL, si chiama Napoleone. Si chiama Napoleone. E oggi viene intervistato da Libero e dice: guardate che se anche vince il sì, il CNEL rimane. Ma come? Ma dai, no, Napoleone. Ma come rimane? Sì, sì, rimane, verrà riformato in altro modo, ma rimane. Vincino, buongiorno, non è straordinario, buongiorno. Tu che racconti tutto per vignette, il presidente del CNEL si chiama Napoleone. È bella questa cosa. Già. Assolutamente. E tra l'altro dice, ma perché non si dimette? Perché farei come Schettino, Napoleone che teme di fare Schettino e non si dimette. È bello, è bello. Non capisco, ma comunque. Non capisci. Sto capendo più nulla. Non capisci dire. Più nulla. Cioè, ho capito come andrà a finire. Ho capito come andrà a finire. Perché i sondaggi non sono più divulgabili. I sondaggi di satira, sì, assolutamente. Ah, sì, sondaggi di satira. Quello è intuito. Allora, aspetta, non rovinare il finale. Ce lo dici con calma. Intanto, caro Vincino, ti voglio presentare la nostra Luisellona, Luisella Costa Magna. Buongiorno Luisella, come stai? Buongiorno a voi. Sentite che bello sentire la voce di Luisella Costa Magna appena sveglia la mattina. Hai voglia. Allora, siamo qui alle 6:36 minuti, dobbiamo aprire il Parlamento, a forza. Ma ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io mi voglio bene. I brogli, brogli, brogli, brogli, brogli, brogli. Parlano tutti di brogli. Guardate che anche in America parlano di brogli. Sapete che vogliono ricontare i voti? Qualcuno dei democratici vuole ricontare i voti negli stati in cui Trump ha vinto di poco, eh? Cara Luisella, vedi che ogni... tutto il mondo è paese, com'è che si può dire? Sì, adesso si annunciano ricorsi anche da noi. Ma visto che i sondaggi sono bloccati, scusate, facciamo un mini sondaggio, perché sì, io ho fatto una dichiarazione di voto esplicita sul no, e voglio sapere tu ma sei impazzita, c'è la par condicio, mi fai uno spettacolo al Teatro Manzoni, sentivo domenica sera, sì, ma che c'entra? Di referendum, ma sì, ma si riderà. No, è anche Vincino può dirlo. Ma sì, Vincino sì, può dirlo. Io assolutamente non posso dire nulla, ma sei impazzita. Questa è la settimana in cui sono un po' più per il no, settimana, però la prossima non lo so. La scorsa ero molto per sì. Questo no, perché il problema è questo qua, insomma, la riforma è una schifezza totale, vabbè. Sì. Cioè, come dire, a me poi in realtà era bello, il cameralismo perfetto e stupendo, era una cosa bella, in Italia avevamo una cosa bella, perfetta, precisa, che funzionava, ma alla grande proprio, non è che quante stronzate ha evitato il bicameralismo perfetto, guarda, non lo sai, ma t'assicuro, no, perché poi questa cosa qua che uno deve fare leggi... Perché questa è la settimana del no e la prossima del non so o forse del sì? Perché in realtà, gli italiani vorrebbero che Renzi continuasse. Perché gli piace questo ragazzo così che fa casino, però come capo di governo non ne trovano in giro uno meglio, assolutamente. Alla fine vincerà il sì 53%, il sì e 46%. Il sondaggio della satira 46, allora, ce lo siamo persi. Una mucca, l'ho tagliata, ho visto le visceri è andata così. Allora ci siamo giocati i vegani con questa, i vegani e gli animalisti con questa. No, ma insomma, l'ho sventrata per gli auspici, la facevano seconda cosa, fatto, 53, che, no, per mangiarla 53-46 vuol dire che ci balla un 1% che ci perdiamo così. No, indecisi, nulle. Non è che si vede tutto dalle viscere, è la schifezza, diciamo, qua tutta casa sporca, mamma mia. 53 sì, è i sondaggi di satira. Ma parla come Cacciari, no? Cosa Vincino, ha fatto Cacciari? Che dice questa riforma è una puttanata, molti dicono così, terrore, al terrore di avere un... Sì, è questo, sì. Ho messo mi sono fatto un'altra cosa. Qual è l'unico partito all'interno del quale non c'è uno solo che la pensa come il suo capo? Cioè dentro il PD c'è il 30-40% che è contro Renzi, sì. Dentro Forza Italia di Berlusconi di Conte, dentro 5 Stelle non c'è uno solo, li ha fatti pure tu, uno solo contro Grillo non c'è. Appena mi chiedono e quello è il fascismo duro, come dire, fascismo duro totale, ci siamo inimicati anche quelli del Movimento 5 Stelle, vabbè, comunque Luisella, io una cosa però ho capito, una cosa l'ho capita, che bisognerebbe votare ogni 2 mesi, perché adesso arrivano anche gli 85 euro, forse, lordi, per carità, al mese per gli statali. Ma se votassimo ogni 2 mesi non saremmo tutti più ricchi? Voglia, è tutto un bonus, però in compenso leggevo adesso dalla manovra spariti 50 milioni di euro destinati a curare i bambini dell'ILVA. Che ti danno mance, bonus, lotterie, riffe, evasori fiscali e poi si tagliano i soldi utili per curare i minori che vivono intorno allo stabilimento e che sono malati. Questa me la sono persa. Qual è la strategia? Me la sono persa. Siamo come Trump, no? Che dice ai malati terminali prima di morire però votatemi, no? Quella è stata stupenda di Trump, devo dire, forse la dichiarazione più efficace: non importa se dovete morire, votatemi prima, vi ricorderemo nelle preghiere. Beh, fantastico. Infatti avevo dato il premio sulla verità che adesso preparo per domenica, The Jackal, a Trump, ma in questo caso se lo merita anche il PD col basta un sì che cura il cancro. capito. Allora, questa cosa della salute effettivamente è una cosa. Quando si tira in ballo la salute degli italiani, io non lo so perché i politici non capiscono, no? Famosa battuta di Berlusconi, battuta, ci credeva, cureremo il cancro, eccetera. Sono quelle cose che proprio sono quelle cose che non si devono toccare, la salute degli italiani, non bisogna pronunciarla, soprattutto legato a una campagna referendaria. Senti qua, caro Vincino, senti la Boschi. Sì. Ah, nessuno vuole strumentalizzare storie come quella del signor Donato o altre storie personali anche difficili e dolorose, quindi non voglio dare risposte, diciamo, che possano sembrare la bacchetta magica, per carità. Credo però che questa riforma aiuti. Aiuti. Il signor Donato era colui che a Politics era stato intervistato e tra l'altro oggi al Fatto Quotidiano dichiara: non sapevo neanche che la mia intervista sarebbe andata in una discussione sul referendum. Pensavo che fosse un'inchiesta sulla sanità. Capisci? Sulla sanità. Caro Vincino, va bene tutto. Vergogna. Dici che vergogna. Non si fermano davanti a niente, veramente. Ma guarda che da 5, davvero, vi avviso, forse non lo sapete, che da 50 anni, da 60 anni, che la politica è nella sanità e determina i nostri amministratori di ASL, di COSO, determina i nostri quella. Vi ricordate quello scandalo in cui, che ne so, c'era in cui il governatore che sponsorizzava quel chirurgo, quell'altro? È una cosa insopportabile. La politica è da sempre nella sanità. Ma non è che puoi dire che vergogna, che meraviglia, ma che cosa ci vergogna? La politica della sanità, Vincenzo, ma non puoi dire con una riforma curiamo meglio i malati di cancro? È la stessa cosa, la politica sta nella sanità da sempre ed è insopportabile questa cosa qua, ma è da sempre, per cui come dire questo sulle nomine posso capire, ma è la stessa cosa. Qual è la cosa, scusa, allora, c'è differenza tra le nomine e determinare posti di miliardi di soldi che vanno da una parte all'altra, che vanno come dire però Renzi dovrà essere il nuovo che avanza invece dopo tutto questo nomina, ma non è che può cambiare tutto in un anno, in due anni, Gioia, cioè 70 anni, come no, dire, cioè, Gioia, De Luca dopo le belle dichiarazioni che ha fatto, il clientelismo. Ma guarda che clientelismo, scusa, ma allora facciamo ipocriti qua pure, siamo grandi ipocriti. Quando mai? Ma allora in tutte le elezioni chiunque governatore riunisce i sindaci del suo partito e gli dice facciamo così o facciamo quella, è normale, è la vita italiana. Capito, Luisella, è disamorato delle cose, è pragmatico, ma non no è più, non sono pragmatico, non è più, però, come dire, non ma più questo no, idealismo, cioè, che aveva conosciamo l'Italia quando a 30 anni combatteva in piazza questo idealismo, questo vuol dire che a 25 sono cose vergognose nominare De Luca commissario alla sanità, premiato De Luca, l'hanno votato alla grande, e allora possono scegliersi i campani uno come De Luca, sì. Hanno questo diritto? Sì. L'hanno fatto? Sì. Beh, vabbè, però è diritto di Luisella dire che non gli piacciono le cose che dice. Non si è indagando e non debba indagare per voto di scambio. Ma quale voto di scambio? Ma per favore, ma siamo ridicoli, dai. Allora, come dire, se è campagna elettorale normale, voto di scambio, allora abbiamo finito di fare politica. Lo so che voi volete questo. Voi chi? Aspetta, fermati Vincenzo, ma voi chi? Voi chi? Nel senso, perché Luisella rappresenta un partito. Luisella, che partito rappresenti? Ma cosa rappresento? Rappresento me stessa e già faccio fatica perché è complicato soprattutto anche rappresentare alle 6:30. Soprattutto alle 6:30 dici faccio fatica a quest'ora. Io non riesco manco più a rimettermi a dormire tra poco, guarda, mi stai facendo il nervosire. Ma quello è quando un anziano succede, Vincenzo, non ti stare a crucciare di queste cose. Invece Luisella finisce la trasmissione alle 7, appoggia sul cuscino e bam, piazza altre due ore di sonno. Come un legno, come dice il Papa. Come il Papa Francesco. Andiamo al traffico, dai, che rientriamo tra poco. Il primo premio va al traffico con il pelo lungo e le corna belle. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno inclusi nel prezzo. Vi presenta Oh Maria, sono Anacleto e ho acceso la radio qui, rissa fra sì, fra no, fra di lancia un casino, ci intendo nulla. Ti saluto, un bacio. Comunque io voto sì, tranquillo. Buongiorno Alessandro, ma se dovesse vincere il no, è costituzionale il voto all'estero? Il voto all'estero serve a eleggere Razzi. Razzi è stato votato all'estero, Razzi! Togliete sto voto, subito! Ed io, nella mia attività pubblica, ho soprattutto l'orgoglio di ricordare il trattato di pratica di mare nel 2002, qui vicino a Roma, quando con un anno di lavoro sui miei due amici, Bush da un lato e Putin dall'altro, li convinsi a far finire la guerra fredda. Capito, cara Luisella, a proposito di promesse elettorali, abbiamo capito chi ha posto fine. Con un anno, un misero anno di lavoro, che voglio dire, un problema come la guerra fredda che ci trascinavamo da 50 anni, un anno di lavoro, zac, Bush e Putin. No, no, no, assolutamente, era solo l'89, la caduta del muro di Berlino, sì. Non era ancora in Parlamento, ma già lavorava anche per quello, Berlusconi. Sì, sì, sì, effettivamente, la guerra fredda, va bene signori, caro Vincino, la sapevi questa della guerra fredda che ha posto fine Berlusconi a tutto? E poi dopo è ricominciata, No, non lo so, non lo so. In tutto questo, no, siete di quelli, poi dopo chiediamo il referendum, che abolirebbero il voto all'estero, io adesso questa cosa del voto all'estero non l'ho capita, cioè... No, non l'abolirei. È stata una lotta per 20 anni, hanno rotto le scatole per far votare gli italiani all'estero. Sì, chiaramente sì. Solo che il problema è che non hanno organizzato bene come avvenga, perché è complicato e non è che che poi all'estero all'estero funzionano veramente le cose là, come si chiamano? La democrazia. No, funziona per dire, che ne so, vai a Francoforte e ci sono tutti i calabresi di coso, sono 500 che votano tutti come gli dice uno. Cioè, ci sono le mafie, cosa, se gli chiedo che tempo fa, tirerà fuori una questione che mi mette. Ho visto un processo, ho visto pure una roba. Vabbè, Luisella, tu non trovi però un po' strano, Luisella? All'estero, diciamo che vabbè, la vicenda è vergognosa per come viene gestita. Io sono favorevole ovviamente al voto all'estero, dopodiché dal fatto che si sia puntato così all'estero, perché forse in Italia non si sarebbero raggiunti i voti per vincere il referendum per Renzi, questo già la dice lunga. Dopodiché hanno mandato schede senza timbri, doppie schede all'estero, balle scritte in queste lettere, perché hanno messo dei dati sul SNEL che non stanno né in cielo né in terra, cioè veramente alla faccia dei cittadini di serie A, come continuano a dire i renziani. In realtà li trattano come... Capito, però questa cosa del ricorso a coi voti all'estero, cioè effettivamente se dovesse, cioè io ho capito che se vince il sì ci sarà un ricorso, se vince il no è tutto a posto. Ma infatti queste cose poi non portano neanche bene, anzi in realtà con Trump che dice no, però se perdo farò ricorso, poi insomma l'ha detto vince, Pace, no? Il vecchio costituzionalista, no Trump? No, no, l'ha detto sì, il presidente del comitato del no, Pace, che tra l'altro, dice guarda, il voto da un'ignoranza totale. Fermati, perché ha detto che il voto per posta viola la segretezza, ma in tutto il mondo si vota per posta, però stanno facendo delle cose vergognose, cioè il fatto che hanno sempre fatto queste timbri. Sempre sono arrivate schede in tutto il mondo, in tutte le elezioni all'estero, senza timbri. È successo questo. No, però aspetta, questa cosa devono essere senza timbri, cioè non è che arrivano senza timbri perché è illegale. Sì, però ti espone ai timbri, ho capito. E allora diciamo un referendum come questo farei le cose con più attenzione. Allora diciamo, il problema siamo noi italiani, perché gli altri referendum no, fanno schifo. Sono stati da dati gli indirizzi solo al comitato per il sì, non al comitato per il no, cioè stanno facendo delle portate. Allora ci sta che uno abbia i riflettori accesi su questo voto all'estero, che è chiaro, il comitato del no ci sta, è certo. Io abbiamo fregato il referendum là contro Berlusconi sulla riforma di Berlusconi, così con 2-3 milioni di voti all'estero per il no, dai, è trovati così. Allora facciamo che cambia argomento, vi racconto questa. Caro Vincino, quante scuole hai occupato tu nella tua carriera? Scuole, università? Beh sì, tutto, quello che vuoi. Che ne so, una... Ma io ho occupato di tutto, Ho occupato pure una cosa di Montecitorio, un'aula di Montecitorio, ho occupato la Pardini distribuzione per una volta, un problema per distribuire il mare, ho occupato municipio di Gela, ho occupato una cella in carcere, ho occupato tutto il possibile. Sai che è stato in carcere due volte, Vincino. Io sarei record, anche tu hai occupato. Allora, con la K occupavi. Occupava quando aveva ancora le idee chiare, adesso ce l'ha meno chiare. Io occupavo e continuo ad averle molto chiare. Poi l'occupazione dell'università, la Pantera, 1992, filosofia, lettera, Torino. Comunque, a Roma è finita così, degli studenti occupano un liceo, arrivano i genitori e a schiaffoni li riportano a casa. È una notizia magnifica! Vieni a casa, a studiare! Perché i genitori da giovane hanno occupato qualche cosa di più serio e sapevano come si faceva a smontare. È una notizia magnifica che racconta Repubblica. È una cosa bellissima. È una cosa magnifica. Succede in un liceo, non lo so, lo leggerò in rassegna stampa. Vieni a casa, studi, che cazzo, te ne do io l'occupazione, ciaf, è così, è Vincino. È un passaggio. Facciamo la settimana di occupazione anche al liceo. Infatti, anche lì voleva fare la settimana di occupazione, ciaf, torna a casa a studiare. Io prenderei i genitori e li porterei dentro loro. È successo ai Parioli, questo posso dirlo, ai Parioli. Vi devo salutare, cara Luisella Costamagna, caro Vincino, tra poco in rassegna stampa leggeremo di questo liceo dove torna a casa a studiare, disgraziato. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali e che tanti schei 24 mattino. Allora, sono le 7:22 minuti e ci siamo, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali, appunto in questo che è lo spazio, la rassegna stampa dedicata alla lettura dei quotidiani in 24 mattino. Forza Peter, andiamo, cominciamo. E bravo Mila, anche adesso ci legge i giornali. Oh mamma mia. Va bene, sembrava vagamente da Genova questo ascoltatore. Venerdì 25 novembre, siamo ai titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, dirigenti a tempo e gare, le nuove regole per la pubblica amministrazione, sono stati varati dal governo altri 5 decreti della riforma Madia. Poi le alluvioni che interessano Piemonte e Liguria per il Corriere della Sera, alluvioni e sfollati straripano i fiumi, è come nel 1994, l'allerta nelle due regioni che dicono stato di calamità. Così la stampa, un fiume di fango e di paura, il titolo di prima pagina. E poi ovviamente il referendum, Repubblica dall'Economist una spinta al no, Renzi non ci sta. Il giornale Adesso la finanza punta sul no, è un'occasione, inversione di tendenza. Il Messaggero mette invece il contratto statali, scoglio 85 euro. lo fa anche il Giorno, ma lo mette in maniera molto diretta. Statali, aumento elettorale. Il governo propone 85 euro in più. Il Fatto Quotidiano invece: usano pure i bimbi diabetici. A Porta Premier e Lorenzin promettono cure migliori col sì. La Verità accusa la cattiva scuola di Renzi. Decine di migliaia di cattedre ancora vuote, alunni che chiedono la maestra scrivendo a Babbo Natale. Queste alcune delle aperture. Voglio partire da quella che è oggi la giornata contro la violenza sulle donne. Avvenire cita il 21% come statistica di donne che ha subito atti persecutori da parte dell'ex partner. Tra l'altro, proprio nel giorno in cui la cronaca si impone ancora con un omicidio di una donna da parte del compagno, chiama i carabinieri, ci ripensa e dopo 2 ore il marito la uccide. È successo a Seveso. Come racconta il Corriere della Sera Federico Berni, da tempo la compagna, stanca, esasperata, l'aveva scongiurato di andarsene e tenersi lontano da lei, dai 2 bimbi piccoli. Lui aveva sì abbandonato la casa, ma insisteva, e mercoledì sera ha approfittato del compleanno della secondogenita, è tornato a casa, ha messo i bambini con un tablet nel soggiorno e poi ha strangolato la compagna. Vittorio Vincenzi, 56 anni, ha ucciso così la 29enne di origine peruviana Elizabeth Uyata Quispe. Troverete sui giornali, legata a questa giornata, la notizia e anche un colloquio sulla stampa con la Presidente della Camera, Laura Boldrini, con la stessa Boldrini che ha deciso di fare che cosa? Di pubblicare gli insulti sessisti. E lo fa, e qui suscita la polemica maggiore, senza omettere i nomi di coloro che hanno fatto questi insulti. Il principio è: sono loro che si devono vergognare, non noi donne che veniamo insultate. Il colloquio lo trovate in prima pagina della Stampa, è il colloquio con l'intervista con Francesco Sforza, e questa è la posizione di Laura Boldrini. Basta insulti sessisti, ho chiesto di eliminarli a Facebook e Twitter. Se la prende anche coi social in questa chiacchierata. Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la Presidente della Camera Boldrini sceglie di denunciare pubblicamente attraverso un post sul suo profilo Facebook gli autori di quegli insulti. Lo ha fatto cogliendo l'occasione per chiamare alla responsabilità i giganti della Silicon Valley e per invitare i parlamenti europei a un'azione congiunta. Mettere regole è un compito delle istituzioni, non delle aziende. E si fa la domanda, Laura Boldrini, chi è che si deve vergognare, io o loro? Si chiede a commento della sua decisione di postare nomi e cognomi. E la risposta è semplice: lo stigma deve passare da chi subisce a chi commette. E poi appunto la critica ai social. Sono rimasta delusa, dice Laura Boldrini, dalle audizioni della commissione Cox, in cui i rappresentanti ufficiali dei social network hanno declinato gran parte delle responsabilità trincerandosi dietro l'argomento «non siamo una media company» oppure «il nostro business è un altro». Le piattaforme digitali hanno potenzialità positive enormi, giocano un ruolo importante nella democrazia. Per questo mi dispiace vederle inquinate da tanto odio e tante menzogne. Il tema c'è, certo, viene rilanciato soprattutto oggi in questa giornata, in questa ricorrenza. Mentre l'avevo anticipata alle 6.30, questa è una notizia straordinaria che riguarda il mondo della scuola. La vicenda di questa occupazione a Roma di un liceo finita a schiaffoni e spintoni da parte dei genitori nei confronti dei propri figli. Ma è fantastica questa notizia, scusate, io sorrido da questa mattina. Viola Giannoli racconta su Repubblica, pagina 28, quello che è successo al liceo Azzarita di Roma, bel quartiere dei Parioli, dove più dei manganelli della celere, stavolta hanno fatto gli schiaffi dei genitori. Gli studenti hanno occupato e sono arrivati loro, mamme e papà, a sgomberare i figli per far cessare l'ennesima occupazione. poche quest'anno, a dire la verità, dice Repubblica, dovrebbero essere zero, ma vabbè, questo è il mio commento da vecchio trombone. Comunque, poche quest'anno rispetto alle grandi ondate del passato, quando il contagio della protesta sembrava inarrestabile, ma questa volta è durata poche ore, volevano occupare e gli stessi studenti denunciano. A un certo punto sono arrivati dei genitori, sono venuti a riprendersi figli a schiaffi e spintoni. Ma è stupenda sta... Torna a studiare! Adesso non esagerare, figlio. Torna a studiare! Torna a casa a studiare! Dove vai? È bellissima. È bellissima. Su Repubblica. Signori, sempre su Repubblica c'è questa notizia che riguarda il mondo della TV, uno dei programmi più infelici, almeno dal punto di vista dei risultati di pubblico, pare che chiuda. Antonio Di Pollina racconta il destino di Politics di Gianluca Semprini, che ha lasciato Sky per andare alla Rai. Politics passa e chiude. Il pubblico ha detto no ai talk del nuovo corso. Per il programma Direi 3 l'ultima puntata, dice Repubblica, sarà il 13 dicembre. Poi il 20 dicembre è già programmata uno speciale di Mi manda Rai 3, ma il concetto è tornerà dopo Natale. E Antonio Di Pollina fa capire che con il direttore di Rai 3, Daria Bignardi, che si è spesa moltissimo in presentazione e sostegno iniziale, ora la linea sembra chiara. Dopo essere arrivati al 2,2% di share nell'ultima puntata martedì scorso in versione referendaria col ministro Boschi, dopo Natale sembra abbastanza chiaro, non riprenderà il programma Politics. Questo racconta Repubblica, mentre siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata. Siamo sul Giornale a pagina 12 e Anna Maria Greco racconta e ci informa che c'è stato un volo Roma-Bruxelles, risale al 9 novembre 2011 per la verità, un volo in cui Roberto Benigni, a spese dell'allora rettore e oggi ministro dell'istruzione Stefania Giannini, che ha autorizzato questo volo perché Roberto Benigni doveva andare a Bruxelles ma aveva la gamba rotta, e quindi è stato autorizzato un affitto di un volo da 16.000 euro. E si chiede il giornale, volo d'oro con Benigni, la Giannini è nei guai, può la gamba ingessata di un premio Oscar giustificare 16.400 euro di affitto per un jet privato Roma-Bruxelles? Per la procura della Corte dei Conti sembra di no, anche se si tratta di Roberto Benigni, che doveva declamare Dante al Parlamento europeo. E se a usare i fondi pubblici è stata nel 2011 Stefania Giannini, allora rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, oggi attuale ministro dell'istruzione. Lei ha spiegato che il 9 novembre 2011 il programma dell'Università per la celebrazione dei 150 anni della Repubblica prevedeva appunto il recital del comico sull'inferno dantesco. E per mandare Benigni e quattro uomini dello staff a Bruxelles si doveva affittare un Falcon, perché lui aveva la gamba ingessata. Si vola con le gambe ingessate anche sugli aerei di linea, si vola sulle gambe, con le gambe ingessate anche sui low cost, ma evidentemente era più comodo così, e sicuramente era più comodo così. E allora, eccolo qua, il volo d'oro con Benigni. 16.400 euro, dice il giornale. Ora la Giannini, il ministro Giannini, rischia di passare dei guai. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan al pota pota dell'informazione. Allora ci siamo alle 7:36 minuti, cari ascoltatori. Il referendum, la notizia più importante almeno secondo il giornale, è il fatto che l'Economist, il giornale finanziario certamente seguito, certamente influente, ha detto meglio se vince il no in maniera così netta. Renzi risponde ci vogliono deboli. Come raccontano tutti i giornali, leggo da Repubblica pagina 2, dopo 20 anni di battaglia contro Silvio Berlusconi, l'Economist mette nel mirino Renzi. Ha sprecato quasi 2 anni ad armeggiare con la Costituzione, si legge sull'Economist. Prima l'Italia torna a occuparsi delle riforme vere, meglio è per tutta l'Europa. E tra l'altro l'Economist ha tracciato scenari sui futuri assetti di governo. Le sue dimissioni potrebbero non essere la catastrofe che tanti in Europa temono. Riguardo Renzi, scrive l'Economist, l'Italia potrebbe mettere insieme un esecutivo tecnico come ha fatto tante volte in passato. Una sconfessione certamente pesante, racconta nei giornali. La reazione di Renzi è quella di ci vogliono deboli. Tra l'altro anche all'interno dell'Economist fa sapere Repubblica c'è una spaccatura, una divisione. Cioè voi capite che comunque noi italiani che dovremo decidere sulle modifiche della Costituzione, oggi sui giornali leggiamo che la redazione dell'Economist, cioè un giornale straniero, è spaccata sul sì e il no al referendum. Capite che questa campagna elettorale ha preso delle pieghe quasi psichiatriche. Bisognerebbe dire. Certo, Ferdinando Giuliano racconta sempre su Repubblica come analisi dopo questo articolo dell'Economist che sicuramente c'è l'attesa da parte dei mercati finanziari, da parte del mondo delle banche, da parte di tutti per sapere questo verdetto delle urne e racconta Repubblica un'incognita riguarda anche il comportamento della Banca Centrale Europea. Visto che 4 giorni dopo il voto di dicembre Draghi dovrebbe annunciare il destino del quantitative easing che potrebbe terminare a marzo. Il problema è soprattutto in caso di vittoria del no, che dai sondaggi ultimi, quando erano pubblicabili, veniva data per più probabile, Renzi punterà ad elezioni anticipate sì o no. Ecco, questa incertezza, questo dubbio in caso di vittoria del no porta ovviamente a maggiore incertezza sui mercati finanziari. In ogni caso, la reazione di Renzi è in Europa rivolgono i tecnici. Come racconta la stampa, il premier si sente accerchiato. Ieri, per esempio, sempre Repubblica racconta che Renzi era a Cassino, alla Fiat, e nell'impianto della nuova Giulia, dove c'era ovviamente anche Marchionne, ma racconta Repubblica in questo resoconto della visita del premier a Cassino, gli operai lo deludono, ti voteremo contro, questo è il titolo di pagina 3, anche se Marchionne invece dice io dico sì perché è in gioco il paese che lasceremo ai nostri figli. Forse l'intervista più bella, l'intervista come dire più leggibile, è su Libero al presidente del CNEL, Delio Napoleone si chiama. Sapete che uno degli effetti del referendum è se passa il sì il CNEL viene abolito. Ebbene, guardate qua l'intervista su Libero: se passa il referendum il CNEL non sarà abolito, così dice il presidente del CNEL intervistato da Francesco Rigatelli. Intanto dice: tutti hanno detto di sì, ma il CNEL non risponde al modello economico post globalizzazione. Io non mi dimetto perché ho un obbligo costituzionale, sarei schettino che abbandona la nave. Ma cosa succede dopo il referendum, presidente? Io osservo il sì e il no, per me sono equivalenti. In entrambi i casi il CNEL va rivisto. Come va rivisto? Scusi, se vince il sì, viene abolito. Durerà in ogni caso, se vince il sì con una forma, se vince il no con un'altra. Esiste in ogni paese europeo, è previsto nei trattati e se resta Renzi sarà lui stesso a riformarlo. Insomma, in questo clima di totale incertezza, il presidente del CNEL dice, bontà sua, che il CNEL, anche se passa il sì, in un'altra forma rimarrà. Vabbè, siamo il paese del Gattopardo, quindi tutto è possibile, non lo so. Io ve la giro come intervista sul Libero e poi vedete voi. Ci sono le polemiche sul voto all'estero, le trovate sul Fatto Quotidiano. Ci sono anche le accuse, sia sul giornale sia sul Fatto, di utilizzare in qualche modo la salute in maniera impropria dopo la battuta, la dichiarazione di Maria Elena Boschi a Politics sulla questione dei malati di cancro. Finirà il divario nelle cure tra regioni e quindi è più possibile curare meglio i malati di cancro ovunque. Poi c'è la questione del diabete, i bambini con il diabete potranno essere curati bene in tutto il paese. Insomma, è chiaro che i politici forse non hanno capito che quando toccano questo tasto così sensibile, così prezioso, così importante come quello della salute, gli italiani un po' magari si arrabbiano. Tra l'altro viene intervistato su Il Fatto Quotidiano, questa persona dell'associazione, dell'associazione che è stata coinvolta nell'intervista a Politics, e dice: non sapevamo neanche si parlasse del voto, ci hanno contattato pensando si parlasse di un'inchiesta sulla sanità, non sapevamo certo che l'intervista a un malato di cancro sarebbe stata proposta per parlare nel contesto referendario. Così parla l'associazione contattata da Politics per lo spot di Boschi col malato. Questo è il Fatto Quotidiano a pagina 6. Va bene, sappiate che arriverà presto il 4 dicembre e poi si voterà. Molto bene. A proposito di voto il 4 dicembre, ci sono alcuni giornali che collegano, Il Giorno lo fa addirittura in prima pagina, gli 85 euro lordi al mese proposti agli statali da parte del governo come aumento dello stipendio al quesito referendario. Il Giorno lo mette in prima pagina proprio in maniera brutale: statali, aumento elettorale. Comunque, a chiarire tutto, c'è colui che tra l'altro può essere introdotto così: è venerdì, è stata magari una settimana pesante, una settimana di pioggia, una settimana di difficoltà, potete mettervela alle spalle pensando comunque sempre meno male che c'è l'Inter. E allora il nostro Mauro Meazza, buongiorno, come stai? Buongiorno, ma devo dire, ero un attimo silente perché... Sì. Ecco perché. Sì. Non ne ha tenute una, ma le ha prese tutte. Ma che è? Dentro c'è grande spazio, no. Il colpo di tacco e il Beersheva trova il gol con Ben Sahar. Di tacco? Non l'ho vista, di tacco, ma è un gran gol, è stato, di tacco. Bene, passato questo momento di gioia, di soddisfazione per tutta quella tribù di milanisti lì che siete, sì. E pazienza, insomma, cosa dobbiamo fare? Vorrei partire allora da una notizia appunto di valore internazionale. Forse, come hai notato sulla prima pagina del Sole 24 Ore, ieri il Parlamento europeo ha votato una risoluzione per dire congeliamo le trattative con la Turchia per l'ingresso nell'Unione Europea. Bene. Verrebbe un po' da dire era ora, però la risoluzione non è vincolante per il momento. Lo spieghiamo tutto poi nelle pagine interne. Ma ieri giornatona anche per la riforma Madia. Te la ricordi la riforma Madia? Certo. Oh, allora, caro Alessandro, sono arrivati i sì definitivi, quindi si fa, per tutta una serie di modifiche, di interventi su, ad esempio, i lavori edilizi, la scia, sai cos'è la scia? Il permesso, insomma, per costruire, oppure per la riduzione delle camere di commercio, dovrà avvenire in 8 mesi, non so se poi dovremo far partire il contratto delle settimane decisive, vedremo, e poi naturalmente la dirigenza pubblica, i dirigenti pubblici. È tutto spiegato nelle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore, mentre se vai nella parte di norme e tributi, che tu leggerai anche oggi religiosamente, avidamente, leggi finanza, dove ci parliamo tra l'altro dell'aumento di capitale di MPS, ma nelle pagine di norme e tributi troverai la definitività del decreto legge fiscale. Hai presente il decreto legge fiscale? C'è la voluntary lì dentro, la nuova voluntary disclosure 2.0, e poi soprattutto la rottamazione delle cartelle. Hai molte cartelle da rottamare? No, da pagare, no, magari. Non è consentita, credo, la rottamazione dei giocatori, peccato, perché avevo anche qualche cosa forse da proporre, ma non importa, passiamo oltre perché hai già dato la notizia, mi pare, che ti fa pensare la giornata, come dici tu. Sì. Ecco, però forse c'è una notizia che un pochino fa iniziare, magari non quella più che fa più iniziare, ed è il fatto che non ci sarà alcun aumento delle pensioni nel prossimo anno. Ah. Questo perché sai che è legato all'andamento dell'inflazione, alla rivalutazione, non essendoci stato aumento dell'inflazione non ci sarà neanche aumento. Lo spieghiamo sempre nelle pagine norme tributi, quindi vedi che ti conviene leggere religiosamente. Assolutamente. Ok, assolutamente, mi piace questa risposta, teniamola. Allora, caro Alessandro, mi pare che il tempo corra e non sarresti un'ora. Mi pare che tu hai un impegno domenica al Teatro Manzoni. Ma anche tu hai un impegno domenica al Teatro Manzoni. Tutti al Teatro Manzoni, anche voi ascoltatori avete un impegno al Teatro Manzoni domenica sera. Molto bene, tu hai un impegno domani sera per il quale ti faccio tanti auguri all'Empoli, certo, auguri all'Empoli. E invece domenica ci vediamo serenamente, direi, al Teatro Manzoni, perché tanto noi giocheremo di lunedì e così almeno avranno più tempo per riposarsi. Ma riposarsi. Auguri allora per una buona prossima settimana, caro Mauro. Oh, ma grazie tante di ricambio di cuore per un buon fine settimana cominciando già da domani. E soprattutto, traffico! Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Quegneun, affermit, venenzit kengen kenel, casse sandrin cavalesh le giornel, e ne naviti idete come le lesce bel. Dialetto molfettese. Ma è stupendo questo dialetto molfettese, ho capito almeno il 3% di queste parole. Grazie davvero, caro amico. Allora, c'è un problema, oltre a quello delle firme false da parte del Movimento 5 Stelle. Sapete, in Sicilia, soprattutto alle comunali di Palermo, ora si è allargata la questione potenzialmente anche alle regionali a Bologna, ma alle regionali in Emilia-Romagna dunque, ma il Corriere della Sera scrive che c'è un'altra problematica legata al sindaco di Roma, Virginia Raggi. Incarico a un'indagata per corruzione. Raggi scivola su un'altra nomina. Sono Andrea Arzilli e Ilaria Sacchettoni che raccontano a pagina 10 questa nuova nomina che rischia di imbarazzare la giunta Raggi, quella di un nuovo delegato per la gestione dei finanziamenti pubblici per la riqualificazione urbana. Si tratta di Vittoria Crisostomi, che però è indagata per corruzione dalla Procura di Roma con i costruttori Emiliano Cerasi e Luca Navarra impegnati in alcuni progetti di lottizzazione. La vicenda è nota e, secondo i carabinieri, la dirigente sarebbe intervenuta a favore di Cerasi, di questo costruttore, con l'ex assessore all'urbanistica Giovanni Caudo. Si trattava di far passare un intervento di correzione su una compensazione urbanistica. Quindi, dopo il caso firme false, ora questa nomina che scrive il Corriere rischia di creare nuovi imbarazzi a Virginia Raggi. Poi avete sentito anche problemi per il traffico e soprattutto problemi per i cittadini in generale nelle due regioni maggiormente colpite dal maltempo, vale a dire Liguria e Piemonte. I giornali che si occupano più di questo sono La Stampa, ovviamente, per quel che riguarda il Piemonte, Il Secolo XIX, per quel che riguarda la Liguria. Sono resoconti di vicende che speriamo si risolvano per il meglio, ma... Certo, a novembre piove, questo si dovrebbe sapere. Certo, a volte piove tanto. Ora raccontano in Valtanaro, che in provincia di Cuneo, che in 60 ore è caduta l'acqua di 6 mesi. Ci sono però anche delle opere di urbanizzazione magari che dovrebbero essere fatte in modo diverso, dei ponti magari non a più campate ma una campata che sarebbe meglio per far defluire l'acqua. In ogni caso il territorio, come sempre, si riscopre molto ferito e martoriato quando ci sono manifestazioni come piogge molto molto insistenti come in questi giorni. Ci sono però, c'è un altro problema che si è verificato a Torino, lo faccio vedere anche in diretta sulla pagina Facebook pubblica, in questo momento siamo in diretta, facciamo la radio in TV, straordinario. È successo a Torino che c'è stata una manifestazione, degli scontri proprio di piazza con intervento della polizia, con prima un assalto, pare legato ad alcuni tifosi del Torino, a un palazzo dove vivono vari immigrati, che poi si sono ribellati e sono scesi in strada con spranghe, pali della segnaletica gettati a terra, bottiglie lanciate in mezzo alla strada contro i passanti. Insomma, La Stampa racconta queste ore di guerriglia urbana, bombe carta, guerriglia a Torino, il prefetto chiede aiuto all'esercito, pagina 12 e 13. Tre ordigni lanciati per vendetta dopo una rissa scatenano poi l'esasperazione. Gli africani in rivolta, racconta La Stampa, italiani razzisti, ci chiamavano scimmie, la polizia ci controlla e non ci difende. E c'è anche un resoconto di Lodovico Poletto con alcune frasi come questa che fa titolo a pagina 13: Allah ci guiderà nella vendetta. Ovviamente frasi estrapolate, raccolte in questo viaggio, sia anche Libero e La Verità mettono ampio risalto, dando ampio risalto a questa vicenda di guerriglia urbana che però ha davvero rischiato di degenerare per qualche ora, ma segno anche di una tensione, visto che c'è un mancato controllo del fenomeno, è uno scarso controllo del fenomeno e quindi il rischio che tutto ciò porti a problematiche. Devo leggere l'articolo, il titolo di prima pagina della Gazzetta dello Sport sull'Inter. Dai, non spariamo sulla Croce Rossa, su, andiamo alla carta costa. Articolo più inutile scovato sui giornali: super sconti, gli acquisti in rete, gli articoli sul Black Friday con la gente che va in coda per ore, ore, ore, ore, ore, non per andare, che ne so, al mare a fare una bella gita, no, in ore, ore a fare lo shopping. Ma chi se ne frega!